la mia Peris prenderà. La mia Peris prenderà, la mia Peris prenderà. Ritorte, la mia Peris splenderà. La mia Peris splenderà. Risplenderà la mia fe. Tra le ritorte, si tra i ceppi e le ritorte, la mia Peris splenderà. La mia fe risplenderà, risplenderà tra le ritorte, la mia fe. La mia Peris splenderà. La mia Peris splenderà. La mia fe, la mia Peris splenderà. Si tra i ceppi e le ritorte. La mia Peris splenderà, si tra i ceppi e le ritorte, la mia Peris splenderà, la mia Peris splenderà, risplenderà la mia fe tra le ritorte. Si tra i ceppi e le ritorte, la mia Peris splenderà, la mia Peris splenderà, risplenderà tra le ritorte. La mia